big chick. See, I need chick. The C's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. The high heels on for the baby blues. The very first time, man, oh man, yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody stop, we're on a dime to look. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my clickety click, I'll stick it. Yeah, yeah. She's Miss Rhythm. She's Miss Ryan. Oh man, seeing mine, I said, oh, I got a stick chick. See, it's a neat chick, but see what I make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you yeah. know she's a stick? Yeah, yeah. Mama, mama, mama. Yeah, yeah. I stick yeah, a yeah. chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I'll stick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got a crazy yeah, little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, yeah. you know she's slick. Benvenuti, benvenute, ho un po' urlato, speriamo che il compressore regga, e insomma bentornati e bentornate a Slick Chick su Radio Wombat, ovviamente 20 e 31 del 16 ottobre, martedì. Se ci state ascoltando in diretta, probabilmente lo state facendo dal nostro sito wombat.noblogs.org, e altrimenti ci state ascoltando sulle delle nostre frequenze in onde mediocri, della 1359 AM in particolare, beh, magari appunto siete abbastanza fortunelli o fortunelle da essere raggiunti dal nostro segnale e quindi ci state ascoltando in questa maniera un po' vintage. Altrimenti, se non lo state facendo, beh, vi sprono a provarci, raccattate in qualche mercatino qualche radiolina che abbia le onde medie AM, sì, quelle lì, o MW in inglese, e quelli, girando la manopolina, a un certo punto forse, se siete fortunati, ci troverete. E bene, vi ho detto già subito tutte le cose importanti che vi dovevo dire. E dalla prima traccia di questa scaletta forse vi siete accorti che parleremo di un argomento scottante, molto serio, molto importante, ovvero il rossetto. Il rossetto, beh sì, ok, perché dovevo un po' controbilanciare il fatto che la scorsa puntata ho parlato di cenere e di ceneri, allora ho detto vabbè no, dobbiamo un attimo ripigliarci, e quindi cogliendo anche l'allegrezza data dalla puntata, la nuova puntata di Reg 69 che mi ha preceduto, insomma proseguiamo sempre su Radio Wombat con un tenore molto alto e appunto parlando di rossetto. Lipstick in inglese, e il brano che ci siamo ascoltati era dei The Playthings, che poi è gente che dopo ha fatto robe Northern Soul, anche di una certa rarità, ma piuttosto belli, insomma. E però erano, insomma, nel 1958, un po' di anni addietro, hanno fatto questo fantastico pezzo, tra l'altro piuttosto raro da trovare, la qualità faceva un po' schifo, ma mi perdonerete, non è che ho molte altre risorse. Proseguendo nella nostra scaletta, beh, siamo proprio all'inizio, abbiamo Benny Spellman, siamo sempre più o meno in quegli anni, Lipstick Traces on a Cigarette, registrato per la prima volta da Benny Spellman a New Orleans nel 1962. Probabilmente conoscerete questo pezzo per una cover molto famosa che è quella dei Rolling Stones, ma se siete come me più affezionati agli originali potete ascoltare adesso la vera veritiera versione. Pretty brown eyes, your wavy hair. I won't go home no more, 'cause you're not there. I'm telling you now, like I told you before, I'm so in love with you. Don't leave me no more. Lipstick traces on a cigarette, every memory lingers with me yet. I've got it bad, like I told you before, I'm so in love with you. Don't leave me no more. Won't you come on home? Won't you come back home? Oh, won't you come back home? I'm crazy about you, can't do without you. Oh, won't you come on home? Lipstick traces on a cigarette, every memory lingers with me yet. I've got it bad, like I told you before, I'm so in love with you, don't leave me no more. Bad, like I told you before, I'm so in love with you. Don't leave me no more. Come siamo saltellanti oggi su Slick Chick. Beh, adesso ci ascoltiamo un brano che triste non è, però nasconde tra le sue righe un significato un tantino più profondo, più importante. Christy Moore, l'autore, e già vi ho introdotto a una, beh, diciamo a un mondo, e Mystic Lipstick è il brano, l'album è Voyage del 1989 e questo brano è l'omaggio di Christy Moore a Roisin Dubh, ovvero The Black Rose, la rosa nera. Pare che fosse una delle figlie del conte di Tyrone nell'Irlanda del tardo 1600 e a lei era dedicata una famosissima ballata d'amore, triste come solo le canzoni irlandesi sanno essere, ma in realtà Roisin Dubh era l'Irlanda stessa cantata dai rivoluzionari irlandesi. E a lei negli anni sono state dedicate moltissime versioni di questa canzone. Da dama del tardo 1600 in realtà è diventata, nelle parole di Christy Moore, una donna ben più moderna dei giorni nostri, almeno al tempo del 1989, tempo che ricordiamo epoca non proprio allegra in Irlanda, e quindi questa è la versione di Christy Moore di Mystic Lipstick, in realtà appunto di Roisin Dubh, e della sua dedica fatta all'Irlanda. Mystic lipstick, she wears stones and bones. She tells myth and legend, she sings rock and roll. She wears chains of bondage, she wears wings of hope. She wears the gown of plenty, still it's hard to cope. Creole, Creole, your heart is breaking, your eyes are red, your song is blue, your poets underneath the willow in despair, they have been lovers of your sad tune, lovers of your slow air. And though they feed on what hurts you, to sing the book of your heart. Oh, sweet black rose, how they've loved you, and it's hard to, but they do. The bloody warfare, the stars and the stripes and crown. Still we pray for a better day now, God willing it's for the best. I just seen the harp of the penny with a dollar on her naked breast. Cree, oh McCree, your heart is breaking, your eyes are red, your song is blue. You call lovers of your soil. però una volta Christy Moore non ci ha dato una canzone tristissima che parla di prigioni, galere, detenuti e gente che si ammazza o che muore, ma finalmente qualcosa di un po' più così gradevole, ecco. Beh, non lo so, io in realtà adoro anche quell'altro tipo di Christy Moore, ma avevamo detto che non ci piangevamo addosso, non facevamo i piagnoni oggi, e quindi ritorniamo ai nostri rossetti, ai nostri trucchi. E io devo dire che, lo dicevo prima, microfoni spenti, in realtà, cioè, qui c'è tutto un nugolo di vombati, voi non sapete, ma ci sono qui intorno, e in effetti parlavamo del fatto che io non pensavo che, parlando di rossetti, trovassi tutta sta musica. Io ho detto vabbè, troverò tre cose trash, e invece un sacco di gente ha parlato dei rossetti. Evidentemente i musicisti sono molto ispirati dal trucco e dai rossetti, ma anche personaggi impensabili, tra cui ad esempio i Buzzcocks. Penso che non l'avreste mai detto, ma anche i Buzzcocks si sono posti una delle più fondamentali questioni dell'umanità, ovvero: ma quando tu mi baci, il tuo rossetto resterà sulla mia faccia? È esattamente questo che si chiedono i Buzzcocks in Lipstick, per l'appunto, dall'album Entertaining Friends del 1992, e ci ascoltiamo la versione alla una delle Peel Sessions, così, giusto per aggiungere rarità. Questa che devo necessariamente dedicare alla Nina della Brusca, perché voi non lo potete sapere perché non si vede in radio, ma ci sfoggia sempre questi sgargianti e bellissimi rossetti, e quindi cosa non vedono i nostri microfoni, che voi del resto invece poracci non vedete. Proseguendo, The World Inferno Friendship Society ci stavano perfettamente in questa scaletta. Don't kiss me, I'm running out of lipstick, ovvero non baciarmi, sto finendo il rossetto. L'album è di Spocket Funeral del 2014 e il rossetto è un trucco, un escamotage barocco, una mossa da cabaret, e i World Inferno Friendship Society sono dei cabarettisti nati con tutti i trucchi, i travestimenti, gli effetti scenici e i tempi comici che servono, quindi non potevano proprio non entrare in questa scaletta. Jack, if I smile, don't turn your back. Close to the bone, hard on the skin. Life is a lot of us. She's a damn thing every day. You want to say no, let them be all at night and they go. Everybody does what she says. Don't be shocked if it's not luck. It's what we always did. It's what ne sapevano i World Inferno Friendship Society, oltre ad avere il nome più lungo, penso, della storia. Allora, proseguiamo, siamo circa a metà di questa scaletta di oggi e un altro brano che parla di rossetto è Lipstick on Your Collar. È una canzone cantata per la prima volta nel 1959, torniamo quindi un po' indietro da dove eravamo partiti all'inizio, cantata da Connie Francis. In un'intervista a Connie Francis gli viene chiesto come mai è una delle pochissime cantanti donne del rock and roll, e qui si sfonda una porta aperta, un grande classico, e lei risponde sta roba raccapricciante veramente del tipo il rock and roll è un tipo di musica maschile tutta, hey baby you're going to rock, che viene meglio cantata dagli uomini. E l'errore, continua Connie Francis, che molte cantanti hanno fatto, è cercare di competere con gli uomini. Io invece ho provato ad aggiungere un tocco carino, ve lo giuro, dice proprio carino, nei testi, cose come Lipstick on Your Collar and Stupid Cupid. Madonna, mi sono venuti tutti i brividi. Meno male che a un certo punto sono arrivati i punk, che in modo carinissimo e femminilissimo, devo dire, si sono impossessati della sua canzone tanto bellina e l'hanno devastata. Sono pure maschi, tra l'altro. Cosa ne direbbe la povera Connie Francis? Non so, sarebbe proprio con tutti i capelli cotonati che gli si rizzano in testa. Cioè, voglio dire, ma se le donne non fanno le donne e gli uomini non fanno gli uomini, dove si andrà a finire? Ciao finale è proprio la perla. E non ve l'ho detto, ma questo brano era tratto dall'album I'm Stranded del 1977. Siamo proprio all'inizio del punk. Beh, insomma, all'inizio proprio no, però insomma nel cuore, ecco. Allora, Elvis Costello ci conduce al prossimo pezzo. Elvis Costello ha scritto un brano molto famoso che riguarda proprio il rossetto. Direi che è forse la prima cosa che trovate quando cercate questa cosa su questo tema su internet, ma perché d'altra parte dovreste farlo se non siete deficienti come me. Comunque, insomma, Elvis Costello ha scritto Lipstick Vogue, contenuta nell'album This Here's Model del 1978. E non so se avete ben presente questo album, ma insomma, se nel resto del disco Costello si era dilungato sull'amore romantico e possessivo anche, e sui mal d'amore classici un po' piagnoni, qui invece in questa Lipstick Vogue usa un bel po' di sarcasmo per demolire una relazione a suo dire stagnante e insincera. Beh, cattivo, molto cattivo qui. Just like a human being too. Not just another mouth or lipstick bone. Just check me one more time. You dead alive, why? Maybe they told you you were only a girl in a million. You say I got no feelings. This is a good way to kill them. Danzereccia, che vi ho fatto quest'oggi. Cioè, proprio direi che non mi potete dire niente dalle ceneri. Si rinasce, ecco, e quindi insomma trasmissione ben più furbetta. Allora, ovviamente non, beh, chi mi conosce doveva assolutamente non dubitarne, e anche gli altri. Comunque, se avete imparato un po' a conoscere Slick Chick e la sottoscritta, non potete non immaginare che in una scaletta dedicata a Rossetto ci dovevo infilare New York Dolls. Era abbastanza evidente. Tra l'altro lo faccio con uno dei brani più celebri, forse il più celebre, ovvero Looking for a Kiss, ovviamente tratto dall'album New York Dolls del lontanissimo 1973. Fra l'altro, oltre all'altro album Lipstick Killer del 1981, che insomma già solo quello ci avrebbe dato l'alibi per metterli in questa puntata, i New York Dolls e il Rossetto in realtà l'hanno proprio eletto a simbolo. Lo basta vedere appunto un qualsiasi loro disco, proprio la loro icona. Nel 73, fra l'altro, perché di questo anno stiamo parlando, non c'era stato neanche Rocky Horror Picture Show, che invece aveva un po' sdoganato tutto ciò, aveva un po' aperto delle porte. I New York Dolls erano un po' dei pionieri. Prima di loro probabilmente c'erano stati soltanto gli Stooges, Bowie e i T-Rex, che avevano osato giocare così esplicitamente, almeno così tanto, con le identità e i generi. Siamo nel momento in cui nasce il punk rock, all'inizio proprio, e i New York Dolls sono estremamente attratti dai travestimenti, dai trucchi, dai simboli queer, dagli immaginari androgini. E boh, per chi li vede per la prima volta in quegli anni sono una bomba, e ma, secondo me anche adesso peraltro. Il fattore ulteriormente destabilizzante è che tutto ciò piace pure alle donne, e non poco. Peraltro la prima esibizione della formazione originale ebbe luogo la vigilia di Natale nel 1971 in un ospizio per senza tetto. Quanto avrei voluto esserci per godermi le facce sbigottite della platea. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. I always looking for a kiss. Well, won't you tell me why those kids are moving so slow? Is it that they just don't have a place to go? When the day starts breaking, the sun is gonna shine. It's hard to sleep if I've been crying. And all the old ladies, they're all on their way to church. You're going to church? I beg you, will I be a lonely boy? My looking got to do to my search. I keep on searching. Well, listen, when I tell you, got no time for fits. Cause I just got to make it, can't afford to miss. If there's one reason, I'm telling you this. I feel bad, bad, bad. And I'm looking for a kiss. Well, I'm a looking for a real hot kiss. Just look at you here, baby. And I'm a-looking for a kiss. When everyone's going to your house to shoot up in your room, most of them are beautiful, but so obsessed with gloom. I ain't gonna be here when they all get home. They're always looking at me, they won't leave me alone. I didn't come here looking for no sex. I know I've been howling on streets all night. Just looking for a kiss. I need a fix and a kiss. I need a fix and a kiss. I need a fix and a kiss. I've been looking for a kiss. I didn't come here looking for no fix. I know I've been holding boogie all night long, baby. Just looking for a kiss. Comunque, se non avete mai visto il live, anche i video, dovete assolutamente guardarlo, perché il solo audio non rende assolutamente quanto erano meravigliosi i New York Dolls. Beh, ci tocca andare avanti, ma non di tanto, ci spostiamo veramente di pochissimo, perché gli Androids, che sono un gruppo, mi rendo conto, non particolarmente famoso, però sono comunque un gruppo punk nordirlandese della prim'ora, proprio iniziano anche loro nel 77, di Belfast, appunto, nordirlandesi, e gli Androids hanno dedicato la loro Lipstick Heroes esattamente ai New York Dolls, cioè questa canzone, beh, già dal titolo insomma un po' se ne vince. Comunque è proprio una canzone che parla espressamente dei New York Dolls, in qualche modo le omaggia, anche perché gli Androids erano rimasti molto affascinati dai New York Dolls, sia esteticamente che dal loro immaginario e da quello che facevano. E, con canzoni come questa, Lipstick Heroes, o come Bondage in Belfast, che già insomma la dice lunga, gran parte delle liriche del gruppo ruotano intorno alla diversità, e boh, non è difficile immaginare quanto apparissero diversi nella Belfast cupa e grigia di quegli anni. Siamo appunto al 77, dopo poco arrivano gli anni 80, i famosi Troubles, e insomma nel Nord Irlanda c'è ben poco da stare allegri. Sono d'altronde questi Androids buffi e grezzi, quasi da far tenerezza. Filled with pills. You had bad girls. You had your two pills. You were standing in the jungle with a monster Frankenstein. What was the penalty for all your crimes that you had? Personality crisis. You had personality crisis. You were looking for a kiss with your past and pushed me out. You were fancy titles where your home sent to. You are human beings flying over the moon. Bow, fighting down boys had too much to do. Then you had a personality crisis. You had personality crisis. Bow, fighting down boys had too much to do. Bow, fighting down boys had too much to do. Puntata questa che, beh, direi per i suoi spunti mi sento anche di dedicare alla Squirt Parade e in particolare alla giornata che ci sarà venerdì prossimo, venerdì 19 ottobre, Reclaim the Squirt, che appunto è un appuntamento antifascista, queer, finalmente direi un corteo che parte dalle Cascine, da Piazza Piazzale Vittorio Veneto, scusate, alle Cascine dalle ore 17, appunto questo venerdì 19 ottobre. Vi leggo il lungo comunicato, però mi sento di dovervelo leggere tutto, che vi racconta un po' della convocazione di questa giornata. A un anno dallo stupro avvenuto a Firenze, dove due carabinieri con l'attenuante tra le tante utilizzate di essere bei ragazzi hanno stuprato due turiste, dopo l'agguato razzista in pieno centro costato la vita ai DDN il giorno dopo le elezioni, dopo mesi di propaganda razzista che ha scatenato la marmaglia fascista e causato decine di morti e feriti in tutto il paese, così tanti che ormai ci stiamo abituando a una quotidianità di pestaggi, sparatorie e omicidi razzisti. Adesso anche donne, froci e froce, tutte quelle persone che fuggono dall'eteronorma, scusate, una parola difficile, dall'eteronorma patriarcale, vengono attaccate. Solo nelle ultime settimane a Firenze sono avvenute 3 aggressioni violente verso delle donne. A Verona una coppia gay è stata attaccata da un branco di nazisti nella loro abitazione, la loro casa ricoperta di scritte inneggianti allo sterminio dei froci e delle froce, su uno dei due è stata gettata della benzina. Ad Atene l'attivista queer Zaki Kostopoulos è stato barbaramente massacrato a morte in pieno centro dai fascisti, macisti e polizia. In ultimo, solo cronologicamente, l'assurdità del decreto Pillon, che vuole attaccare definitivamente le donne su aborto, libertà di scelta, matrimonio e divorzio. La paranoia collettiva e la paura della diversità, grazie alla propaganda di regime e media, ha portato a un'imponente deriva securitaria e alla totale militarizzazione delle città. Nel mentre continua l'attacco sistematico da parte di Stato e Polizia verso chiunque cerchi di sovvertire lo stato delle cose. Tutti questi sono solo alcuni sintomi di come la situazione stia degenerando. Avevamo già chiaro da anni che per il capitalismo noi froce, lesbiche, bi, pan, queer, trans, siamo esattamente come le donne cisgenere, soggetti da includere solo se docili e commerciabili, soggetti che si sposano e fanno figli, possibilmente maschi, ma per carità che non parlino troppo di sesso in pubblico, a meno che non serva per una provocazione pubblicitaria, soggetti che seppur omosessuali è meglio che rimangano nel loro genere di appartenenza e che non diano troppo spettacolo, maschi per maschi, femmine per femmine, fiocco azzurro e fiocco rosa, dove i pride vengono trasformati in vetrina, dove chi vuole portare in strada lotta frocia viene represso dalle stesse associazioni che ormai vanno a braccetto con sponsor e polizia, non abbiamo mai visto spazi di libertà. Sapevamo già che interiorizzare le nostre mobilitazioni è una logica che distingue corpi decorosi e corpi fuori norma, persone che possono permettersi di vivere, persone marginalizzate dai meccanismi del profitto, il tutto per ottenere pochi stracci di diritti, non poteva portare a niente di buono. Per ottenere quegli stracci di diritti si faceva silenzio su leggi, decreti e provvedimenti che continuavano a parlare la lingua dell'espulsione, dei muri, delle frontiere che confermavano i confini della fortezza Europa e altri ne preparavano nelle nostre città e nei nostri territori per escludere persone razzializzate, non bianche, povere o immiserite, persone poco decorose. Il risultato è che adesso che a Minniti è seguito Salvini, i fascisti riempiono le strade e i quartieri. I militari e la sbirraglia vengono piazzati a proteggerci, tra virgolette, ma solo se siamo bianchi, ricchi, possibilmente maschi, cis ed etero. Mentre in realtà stuprano, uccidono, torturano, molestano e quando non fanno tutte queste cose si limitano ad aiutare fascisti e amici a farli agire indisturbati, protetti tra cordoni di Celere e Digos. L'eterno sodalizio tra estreme destre, capitale, Stato e polizia ormai si mostra in tutto il suo schifo e anche alla luce del sole, a testimoniare la continuità tra le politiche adottate dal PD e quelle che la Lega realizza a un livello di sempre maggiore coerenza col PD dove è rimasto al potere sempre all'inseguimento di nuovi gradi di perfezione securitaria. Firenze è sempre più una città in cui per il profitto di palazzinari, proprietari e bottegai le persone povere, fuori norma, che svolgono lavori considerati degradanti o illegali, vengono limitate, controllate, bersagliate da provvedimenti repressivi e o cacciate dalla città. Mentre si controllano i corpi delle donne, cis e trans, etero e non, eventualmente anche attraverso l'appropriazione da parte delle maschie forze dell'ordine, riprendono terreno le estreme destre e i nuovi fascismi, mentre si dà addosso allo stupratore nero si moltiplicano i molestatori e stupratori bianchi, mentre si chiede a noi froce di non far rumore, di non scheccare troppo, gli omofobi e sessisti ci picchiano per strada, entrano nelle scuole, formano gruppi parlamentari, scrivono proposte di legge. C'è chi parla di libertà d'espressione e di dialogo con fascisti e amici, o chiede aiuto alle istituzioni e ai tutori dell'ordine, continuando a dimenticare che sono proprio le istituzioni democratiche, i tutori dell'ordine, che storicamente, da sempre, difendono attivamente fascisti e simili. È proprio grazie a questo modo di pensare che ora ce li ritroviamo a bussarci direttamente alla porta di casa. Noi invece vogliamo fermare l'inondazione fascista, vogliamo porre fine a un mondo di filo spinato e frontiere, merci e fatica, polizia, galere e lager. Vogliamo farlo direttamente, senza delegare a nessuno la nostra libertà e difesa. Dove la nostra unica libera scelta consiste in quella tra gli scaffali o di vedere i nostri corpi strumentalizzati per il profitto o per fomentare il razzismo, noi vogliamo riprenderci le strade per togliere a stupratori, omotransfobici, fascisti, razzisti, sessisti e macisti. Vogliamo costruire una piazza convergente, tante diversità, un unico obiettivo, la libertà per tutti e tutte. Il primo Pride è stata una rivolta, in questi tempi sempre più bui, ancora di rivolta c'è bisogno. Il 19 ottobre riprendiamoci le strade, veniamo ovunque, prendiamoci tutto, generiamo rivolta frocia. Quindi, questo è il lungo comunicato e l'appuntamento, vi ricordo, 19 ottobre da Piazzale Vittorio Veneto alle Cascine, Corteo Street, che inizia alle ore 17. Per avere altre informazioni vi invito a guardare il sito della Squirt Parade, squirtparade.noblogs.org. Bene, dopo tutto ciò e questa lunga parentesi, che tanto parentesi non era in realtà, anzi forse tutt'altro, proseguiamo con gli ultimi due pezzi in scaletta e poi ci salutiamo per questo martedì. Il primo è di Angelica, delle Angelica, perché in realtà a dispetto del nome non è una sola ma sono una band, Lipstick Kiss, tratto da The End of the Beautiful Career del 2000. Le Angelica sono un gruppo Riot Girl inglese come ve ne erano negli anni 90, apprezzate financo da John Peel, per cui hanno fatto delle session e poi eclissatesi nel 2003. Testo assolutamente frivolo e furbetto, Lipstick Kiss. I'm Siamo in chiusura, ultimo brano, ma prima di lasciarvi in compagnia, appunto alla chiusura di trasmissione, l'ultimo brano, vi ricordo anche un appuntamento, oltre a quello che vi ho appena ricordato di venerdì, anche di sabato 20 ottobre, perché il CSA Next Emerson festeggia i suoi 12 anni, e se già vi abbiamo parlato della serata che ci sarebbe stata, che c'è stata sabato scorso, adesso dobbiamo anche aggiornarci sulla prossima, che deve ancora venire, ovvero quella del 20 ottobre, che oltre ai festeggiamenti dei 12 anni di Next Emerson vede anche i festeggiamenti di sempre 12 anni della svolta Sound System, che insomma da direi quasi sempre, forse da tutti i 12 anni, ma se non proprio tutti e 12 quasi, vedono lo stesso compleanno negli stessi giorni e festeggiano insieme molto felicemente i loro entrambi i compleanni, che insomma sono un po' fusi peraltro. Allora, il programma della serata è questo: iniziamo alle 20, apericena, gran gusto, e alle, quindi si mangia, non soltanto si beve, e alle 21 presentazione di Euskadi, la nazionale delle libertà di Edoardo Molinelli, alla presenza dell'autore, e invece dalle 23 Best of Ska, Rock Steady e Reggae Skanking Society Sound System da Ginevra, per la prima volta a Firenze, che è un sound system storico con il proprio impianto artigianale a seguito, molto interessante, molto centrato sullo ska old style, e in conference insieme ovviamente ai festeggiati, ovvero alla svolta Sound System. Allora, Euskadi, la nazionale delle libertà, esce per la Red Star Press, e quindi insomma potete andare sul sito dell'Emerson, csaxemerson.it, per saperne un po' di più e trovare recensioni e tutto quanto. Io non ho tempo, ahimè, di dirvi molto più di questo, ma spero vi rimanga la curiosità e insomma andiate un po' a approfondire, e comunque passiate da questa serata interessante di festeggiamento sabato 20 ottobre al CSA Next Emerson, ovviamente di Firenze. Allora, vi dicevo che c'è l'ultimo brano da ascoltare comunque, che sono i Movie Star Junkies con Lipstick, ma chissà se li conoscete, sono un gruppo blues punk torinese attivo qualche anno fa, e questa canzone in particolare è del 2007. Hanno avuto una certa notorietà, quindi è probabile che li conosciate. In ogni caso, se no, li conoscerete adesso. Con questo vi saluto e vi do appuntamento appuntamento a martedì prossimo, la prossima puntata di Slick Chick, sempre intorno alle 8 di martedì, o comunque alle repliche che sono sparpagliate nella settimana, e vi sprono a rimanere in ascolto di Radio Wombat con le sue repliche e la sua tanto amata bobina. Ciao ciao!